e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Siamo nel bel mezzo del Capodanno cinese, ribadisco questa informazione di fondamentale importanza, l'anno del gallo, no, che è il mio segno cinese, esatto, primo. Borsa cinese è chiusa fino a domani, quindi non riesco a darvi neanche gli aggiornamenti da questo punto di vista. Terza notizia. Fai un po' di vacanza anche tu. Sai perché abbiamo aperto la trasmissione con questa delicata, deliziosa colonna sonora? Alzo intanto anche un po' le cuffie perché sento poco stamattina, sono anche un po' sorda. Perché mi ha colpito molto questa notizia, che in realtà è di qualche giorno fa, ma me la son tenuta lì bella calda, perché dico tanto prima o poi ci voglio tornare, magari con Nicoletta ci facciamo un bel approfondimento. Intanto te l'anticipo, te la propongo. Hai sentito di questo simpatico finanziere cinese? Del Jingbei Investment, sì, che in un seminario ha detto, ha svelato il segreto del suo successo: non facciamo affari con aziende guidate da donne. Molto bene, e qua la battaglia delle quote rosa là in Cina evidentemente non ha grande consenso. È scoppiata la polemica nel paese, che ha in realtà una presenza femminile ai piani alti d'azienda più elevata di molti competitor occidentali, ma lui ha il dente un po' avvelenato con questa società, per cui ha deciso di non fare affari. Ha però un grande successo, evidentemente gli stanno andando bene le cose. Questa notizia fa il paio temporaneamente invece. Dopodiché lo chiamiamo e gli diamo due o tre dritte di comportamento. Invece c'è anche stamattina sui giornali, segnalati in particolar modo sul Corriere della Sera, quest'altro tema che invece è giapponese. Il governo deve correre ai ripari perché sarebbero un po' troppo stressati appunto i lavoratori in questo paese, e c'è addirittura un elevatissimo tasso di suicidi per i carichi eccessivi di lavoro, ed è addirittura allo studio da parte del governo un tetto per i troppi straordinari che i lavoratori appunto farebbero. Per cui, insomma, notizie che ci hanno colpito molto lontane da noi, ma che in realtà magari così ci piacciono anche per fare un dibattito qui in Italia. Non parlerò però di questo stamattina nell'approfondimento di denari. Io parlerò di imminente dichiarazione dei redditi, perché domani è la giornata di Telefisco qui al Sole 24 Ore. Tu invece cosa mi offri? Una giornata molto importante, quella di oggi, e noi vi invitiamo a parlare con noi, perché la salute viene parlando. Parte oggi un progetto in collaborazione con Humanitas, dedicato proprio al benessere e alla prevenzione, un viaggio nel benessere che organo dopo organo, distretto dopo distretto, ci farà scoprire tutto quello che serve per stare bene. Oggi partiamo dalle articolazioni, schiena, collo, braccia, spalle. Mantenerle in forma è importante. Scopriremo con il nostro esperto, il professor Carlo Selmi, che ci raggiungerà a partire dalle 11:15, responsabile di reumatologia e immunologia clinica a Humanitas, come interpretare quei dolori, quegli acciacchini che ciascuno di noi sente nel corso della giornata o in un momento particolare, magari subito dopo l'attività sportiva. Chiamateci, cercheremo anche di capire se c'è un'alimentazione adatta, se gli integratori funzionano, che cosa fare quando le nostre articolazioni sono usurate, e quindi vi aspettiamo, perché le articolazioni sono importanti, e a queste e alle articolazioni dedicheremo tutto il mese di febbraio. Ottimo, partiamo con la mia personalissima rassegna stampa. Andiamo. Non abbiamo salutato i nostri amici nel live su Facebook, gestito dal nostro grande regista Marco Lombardo. Visto che ieri siamo state sgridate da Marco Montemagno perché non facciamo un uso adeguato dei social per diffondere la nostra immagine, si cambia registro da oggi, Nicoletta. Comunque voglio leggere Gabriella, che ci cosa scrive: dice? Carissime, mia nuora è cinese, vi garantisco che le donne cinesi nella maggior parte dei casi hanno un senso degli affari incredibile, niente a che vedere con i maschi, dice a noi, Gabriella. Hanno degli attributi sferici, non quadrati, direi proprio, perché ti sei spaventata, cosa pensavi che stessi dicendo? Dai, andiamo alla rassegna stampa, che parte come sempre con la giornata di borsa. Oggi finalmente vedo un quadro un po' più sereno rispetto a ieri mattina. Sono due giorni che il nervosismo regna imperante fra i mercati continentali. Abbiamo Parigi in rialzo dello 0,95%, Francoforte più 0,87%. C'è un po' di mal di gola, ti dico, c'è un po' di erisimo a portata di mano. Ho tutto nella mia Londra, nella borsa di Mary Poppins. Brava. Londra più 0,90%, Milano più 0,64%. In realtà c'è un po' di fermento mercato tra le valute, perché ieri c'è stato questo botta risposta a distanza, ancora una volta scatenato da Trump contro la signora Merkel, quindi qua tra donne cinesi di altre aree, guai a provocare quelle tedesche, perché insomma addirittura c'è questa accusa di manipolazione del mercato delle valute, che stamattina si è fatto sentire, queste accuse si sono fatte sentire in particolar modo sullo yen, che hanno spinto a loro volta il Nikkei a Tokyo, ha chiuso in rialzo dello 0,56%, ma insomma addirittura c'è stata questa dichiarazione appunto di intervento sull'euro da parte di Trump, che naturalmente stamattina si ripercuote con un risollevamento della moneta unica europea rispetto al biglietto verde, 1,0790 in questo momento. Salvatore Ferragamo, miglior titolo di Piazza Affari, dopo i conti pubblicati di ieri sera, peraltro una società che va molto bene in Asia, nell'Asia citata poco fa, il titolo in rialzo di 5 punti, Buzzi Unicem più 2,28, STM più 2, A2A più 1,70, in calo invece abbiamo Fiat che sta perdendo 1,5, CNH meno 1,10. Appuntamenti più importanti della giornata: si riunisce il consiglio di amministrazione di Unicredit per fissare il prezzo del prossimo aumento di capitale, che dovrà partire lunedì. Poi abbiamo la riunione della Banca Centrale Americana stasera, la decisione sui tassi, ma non si interverrà sicuramente. Infine avremo i dati sulle vendite di auto in Italia appunto per il mese di gennaio, dato che il Ministero dei Trasporti comunica alle 18. E andiamo al tema di oggi, dell'approfondimento appunto di denari. Domani torna Telefisco, il convegno annuale dell'esperto risponde Il Sole 24 Ore, giunto alla sua 26esima edizione, quindi già un bel po' di esperienza, pronta a passare in rassegna tutte le novità tributarie del 2017. L'hanno aperto da poco, l'hanno appena iniziato, sembra particolarmente intenso come tutti gli anni per la verità, a seguito delle modifiche introdotte sia dalla legge di bilancio che dal recente decreto fiscale. E i temi fiscali di maggiore impatto per i contribuenti sono molti, abbiamo quest'anno in particolar modo un focus molto attento sulla rottamazione dei ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016, è un tema a cui abbiamo dedicato tante puntate. È vero. Di Cuore e Denari. Abbiamo poi molte novità sotto il versante del reddito d'impresa. Come al solito saranno collegate tante sedi da tutta Italia per interagire in diretta con tutti i professionisti, che invece si alterneranno dalla sede centrale del Sole 24 Ore. La manifestazione sarà visibile anche via streaming. Tutti i dettagli sono questa mattina sul Sole 24 Ore, pagina 32 di Norme e Tributi. Anche noi abbiamo scelto stamattina di approfondire un argomento per invogliarvi domani a seguire Telefisco. Il tema che abbiamo scelto di approfondire è la stagione 2016-2017 della dichiarazione dei redditi, un appuntamento a cui siamo chiamati tutti, volenti o nolenti, e il focus che noi facciamo questa mattina è ovviamente concentrato su famiglie e singoli contribuenti. Ci sono delle novità per la famosa precompilata, te la ricordi? Certo che me la ricordo, ma noi non la facciamo, ne abbiamo esatto. Parlato in diverse esatto. Occasioni. Quali sconti ogni tanto ci ricordiamo quest'anno? I nostri ascoltatori di andare a vedere il pescare a le puntate vecchie, il nostro brava, archivio. Brava, ecco. Infatti possono andare sul sito di Radio 24, cercare la nostra trasmissione, c'è un archivio ricchissimo. E quindi quali sconti ci fa il fisco quest'anno, che sembra un pochino più generoso degli anni passati? Avete ristrutturato casa, avete diritto ai bonus, sapete cosa fare per vederveli riconosciuti? Se state già cominciando a mettere da parte i documenti da consegnare al commercialista nei prossimi mesi, ma avete comunque bisogno di qualche informazione, noi stamattina ci siamo all'800 24 00 24. C'è Luca De Stefani, commercialista, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che stamattina scrive parecchio per il giornale. De Stefani, buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Soprattutto porta sul quotidiano tutti i chiarimenti sulla iniziativa presa dall'Agenzia delle Entrate ieri, che ha diffuso il modello definitivo per la dichiarazione 2017 per le persone fisiche. Poi ci spiegherà bene di che cosa si tratta. Poi abbiamo il Globetrotter del fisco, che è Simone Zucca, responsabile produzione CAF Acli, simpaticissimo. Zucca, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno. Ho fatto male a dirlo, ma sul profilo Twitter ci ha indicato così, evidentemente lei è contento insomma che venga chiamato in questo modo, perché certo, tra l'altro orgoglioso, ma perché insomma bisogna anche parlare con un linguaggio un po' fresco di esatto. Fisco, perché altrimenti ci rimane indigesto. Esatto, allora. Sì, soprattutto continua a cambiare, quindi essendo molto dinamica la materia dobbiamo comunque adeguarci. Aggiornarvi. Infatti. Zucca, comincio subito con lei, con un commento magari proprio su questa precompilata. No? L'Agenzia delle Entrate aveva delle grandi aspettative quando, grazie naturalmente agli interventi del governo su questo tema, ha introdotto questa modalità per autocertificarci dal punto di vista fiscale della dichiarazione dei redditi. Secondo voi, secondo quelle che possono essere le stime dei centri di assistenza fiscale appunto delle ACLI, quanti contribuenti quest'anno approfitteranno di questa opportunità e eviteranno di fare ricorso ad un professionista fiscale appunto per la compilazione della dichiarazione dei redditi? Ah, questo è il terzo anno della precompilata che ha visto comunque partire da un dato che non esisteva ad arrivare a circa 2 milioni di contribuenti che hanno fatto da sé lo scorso anno. Presupponiamo che quest'anno questo dato venga riconfermato e quindi non ci sia un incremento sostanziale rispetto al numero di soggetti che già hanno fatto da soli la dichiarazione negli scorsi anni. Mm. Allora, De Stefani, voi fiscalisti invece che cosa ne pensate? Insomma, anche il fatto che quest'anno la precompilata abbia più informazioni in più rispetto agli anni passati, quindi effettivamente si tratta ormai di un'operazione che rende sempre più indipendenti, se vogliono, i contribuenti. Secondo lei permetterà appunto questa circostanza di vedere aumentati i contribuenti che ne approfitteranno? Sì, sì, sicuramente è un'ottima iniziativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma è soprattutto anche per noi professionisti è un controllo ulteriore sulle spese che i nostri clienti fanno e sostengono. Cioè il fatto di trovare nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate per il 730 compilato, ma anche per il modello unico persone fisiche, ricordiamolo, i dati che vengono spediti dai diversi enti dell'Agenzia delle Entrate sono utilizzati anche per il modello della dichiarazione di redditi che si chiamava unico lo scorso anno, sì, e quest'anno è redditi, e sicuramente queste non lo potevano informazioni lasciare come era prima. Per quale motivo c'è stato questo cambio di nome? Ma perché ogni anno ci devono complicare l'esistenza pure con dei semplici cambi denominativi che, non lo so, era utile questo cambiamento, De Stefani? Tanto ma diciamo che ormai era un po' di anni che si chiedeva un po' questo, perché 10 anni fa, quando hanno chiamato il modello unico, era unico perché conglobava il modello dei redditi, la dichiarazione di redditi, quindi il modello IVA, il 770, che è un'altra dichiarazione di redditi per istituto di imposta, e quindi è stato chiamato unico per questo motivo. Da quest'anno l'ultima dichiarazione che veniva conglobata all'interno del modello dei redditi era la dichiarazione IVA. È stata tolta e quindi è solamente autonoma, va inviata autonomamente questa dichiarazione IVA entro fine di questo mese, quindi il modello unico è stato praticamente smembrato in tre. Abbiamo 770 che via per conto suo, l'IVA via per conto suo e si quindi il modello di redditi. Esatto, esatto, ma è una semplificazione per voi o una complicazione, Stefani? Diciamo che abbiamo delle scadenze diverse, quindi forse può essere una semplificazione, sinceramente. Bene. Perché il modello unico 10 anni fa, la scadenza era unica al 30 di settembre, comunque a fine anno, e dovevamo entro quel giorno lì inviare le tre dichiarazioni. Oggi invece si inizia già da subito col 28 di febbraio con la dichiarazione IVA, poi abbiamo a luglio i 770 e a settembre i redditi. Vabbè. Quindi diciamo che dividiamo un po' i diversi compiti. Rimaniamo alla dichiarazione dei redditi di noi comuni mortali contribuenti. Adesso, a proposito di scadenze, le daremo tutte. Peraltro, sì, sono già le 10:46 abbondanti, devo andare al traffico. Voglio solo anticipare che faremo il punto delle scadenze e faremo il punto anche su tutti gli sconti fiscali previsti per quest'anno, perché siccome ci sono delle buone notizie, noi su quelle ci concentriamo a tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Io non pago le tasse perché non ho più soldi. Dopo però sono ammazzate. Dopo però sono ammazzate. Il non fisco è una buona bussa idea. Alla porta, bisogna rottamare tutte le cartelle. No, pagatele, guardate. A malincuore, però qua bisogna essere in regola, perché appunto per il fatto che in tanti non pagano, poi tutti quanti paghiamo di più di quello che dovremmo. Siamo alla vigilia di Telefisco, l'appuntamento storico del Sole 24 Ore, fissato per domani qui dalla sede centrale, tantissime sedi collegate in tutta Italia. Quella di Luca De Stefani, lei la gestirà da Verona? Vicenza. Eccoci qua. Fiera. Benissimo. Allora, quindi questa mattina ne abbiamo approfittato anche noi per interpellare due esperti di dichiarazione dei redditi per capire che cosa ci spetta quest'anno. Simone Zucca, andiamo alle scadenze più importanti. Intanto, entro la fine, credo, del mese di febbraio, l'azienda presso la quale lavoriamo, se siamo dei lavoratori dipendenti, ci invierà il cosiddetto CUD, la certificazione unica dei compensi percepiti dall'anno scorso, appunto, che è il documento di partenza da cui appunto partire per fare poi la dichiarazione dei redditi, se abbiamo delle spese da detrarre e delle altre cose appunto da denunciare. Oltre a questa, di che cosa ci dobbiamo ricordare quest'anno? Sì, in realtà cambia un attimo anche questa scadenza, perché eravamo abituati a ricevere, o i dipendenti erano abituati a ricevere entro il 28 di febbraio, i primi di marzo, la certificazione unica. Quest'anno c'è stato il posticipo, per cui il tempo massimo entro il quale consegnare la certificazione unica al dipendente è il 31 di marzo. Quindi... Dopodiché dobbiamo ricordarci che a partire dal 15 di aprile sarà possibile consultare la propria precompilata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure con i nuovi canali che possono essere ad esempio lo SPID, che è un termine che va di moda in questi giorni. La nostra identità digitale, noi abbiamo anche provato a spiegare agli ascoltatori con i funzionari di Italia Digitale appunto come si fa, il percorso è tortuoso, però per chi è riuscito può utilizzare questo sistema per fare la precompilata. Esatto, probabilmente la precompilata, che sarà visualizzabile a partire dal 15 di aprile, potrà essere modificata e quindi trasmessa a partire da maggio. Certo. Mentre invece già il legislatore quest'anno ci ha già detto qual è il termine ultimo per poter trasmettere il modello 730 da parte dei CAFO, degli intermediari abilitati, e sarà il 23 di luglio. E quindi questa è la scadenza oltre la quale non potrà più essere presentata la dichiarazione, certo, il modello 730. Benissimo. Luca De Stefani, allora quest'anno ci sono delle buone notizie, perché rispetto agli anni passati si è un po' allungata la lista degli sconti fiscali. Allora, quali sono le novità più importanti e le notizie migliori a beneficio appunto dei nostri contribuenti? Su cosa potranno risparmiare un po' di più? Sì, abbiamo avuto un aumento delle detrazioni per quanto riguarda le spese per la frequenza delle scuole, quindi asili, non gli asili nido, ma gli asili, le elementari, le medie, le superiori, le scuole materne. Il limite massimo è stato aumentato da 400 euro relativo al 2015 a 564 euro, quindi abbiamo un bonus di 107 euro rispetto ai 90 euro dello scorso anno per singolo alunno o studente. Questa è una novità introdotta dalla finanziaria di quest'anno. Poi una delle grossissime novità è quella che riguarda il bonus mobili per le giovani coppie. Questa è stata una norma introdotta solo per il 2016, quindi solo per i pagamenti effettuati lo scorso anno, purtroppo non è stata prorogata per il 2017, però diciamo che oggi nella dichiarazione redditi relativa al 2016 possiamo inserire questo bonus. Ricordiamo che era legato alla ristrutturazione dell'abitazione. Ecco, quello generale è prorogato è collegato alla ristrutturazione, e quello è rimasto con dei limiti diversi. Abbiamo 10.000 euro e la detrazione del 50%, e lì è sufficiente aver fatto essere anche non una giovane coppia, quindi essere anche un single, e aver fatto una ristrutturazione, una manutenzione straordinaria sulla propria abitazione, dopodiché è necessario comprare i mobili e con il pagamento effettuato si può detrarre il 50% di questo importo. E questa è stata approvata anche per quest'anno. Diciamo che per lo scorso anno la novità era solamente il bonus mobili per le giovani coppie, quindi era necessario che almeno uno dei due contribuenti avesse meno di 35 anni, era necessario essere sposati oppure conviventi da almeno 3 anni e aver acquistato un'abitazione nel 2015 e nel 2016 da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, praticamente. Benissimo. E la detrazione era pari al 50% dell'importo dei mobili acquistati per comprare, con un limite massimo di spesa di 16.000 euro. Quindi questa era un bel... Esatto, era un bel risparmio, purtroppo non confermato, però speriamo che molte giovani coppie abbiano potuto approfittare dell'incentivo. Abbiamo ancora 2 minuti di tempo, De Stefani, per ricordare anche l'altro grande debutto di quest'anno, che è lo sconto fiscale per chi ha acquistato una casa tramite leasing, una grande novità appunto. Non so, adesso non abbiamo delle stime, magari ci faremo una trasmissione apposita prossimamente. Noi avevamo raccontato come funziona questo strumento di finanziamento dell'acquisto della propria abitazione principale. Chissà com'è andata, chissà in quanti ne hanno approfittato. Sicuramente lo sconto fiscale non è proprio da buttare via. Sì, anche in questo caso abbiamo una detrazione fiscale, quindi il 19% dei canoni di leasing che vengono pagati. L'agevolazione vale dal 2016 fino al 2020, quindi tutti i canoni che vengono pagati in questo periodo per l'acquisto o la costruzione di abitazione principale possono essere detratti al 19%. È necessario che la persona fisica abbia un reddito complessivo non inferiore a 55.000 euro e è necessario adibire l'abitazione principale entro un anno dalla consegna. Il bonus consiste appunto nel 19% con un limite massimo di spesa di 4.000 euro. Sì. E per quanto riguarda i canoni, mentre per quanto riguarda il riscatto di 20.000 euro. Questi importi sono raddoppiati nel caso in cui l'acquirente sia un giovane con un'età inferiore ai 35 anni. Infatti è stato pensato un pochino anche per loro questo strumento. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi e le vostre domande. Magari riusciamo a far intervenire Giampiero dalla provincia di Ancona per poi rimandare tutti i temi che ci rimangono appunto alla seconda parte della trasmissione. Giampiero, benvenuto. Sì, buongiorno, volevo porre un quesito. Per il recupero fiscale a seguito di ristrutturazione seguiti nel 2016, in caso di decesso del proprietario, l'erede può diciamo recuperare fiscalmente quello che avrebbe recuperato certamente tramite lo sconto. Grazie Giampiero, insomma gli sconti fiscali si possono ereditare. Giampiero, le rispondiamo dopo il giornale radio, adesso è tempo appunto di dare la linea alla regia. Intanto vedo anche molti messaggi di ascoltatori che sono rimasti colpiti dalle notizie che sono arrivate stamattina tra Cina e Giappone. Nicoletta, e vabbè, come sempre troviamo qualche tema che stuzzica un po' la fantasia dei nostri amici. Ci fermiamo, giornale radio, tra poco. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie veramente uniche al Falco e il Gabbiano. Howard Hughes, il folle miliardario che voleva volare. E poi una storia che vi sconvolgerà, anche perché probabilmente non la conoscete, quella dei dimenticati sull'isola di Clipperton. Un uomo il cui disco va in classifica nel momento della sua morte, il grande riscatto purtroppo postumo di Jim Croce. Un signore del calcio, prima da giocatore poi da allenatore, il grande Nils Liedholm, raccontato con Ciccio Graziani. Quasi tutte le grandi invenzioni dell'ultimo secolo sono sue, eppure pochi di voi conoscono il suo nome, perché gliele hanno rubate quelle invenzioni. Nikola Tesla. Tutti i giorni alle 15.30 il Falco e il Gabbiano su Radio 24. Cuore e denari. Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse! Sire, voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi. Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco. Questa è buona. Sì. Anche noi abbiamo i nostri Robin Hood fiscali questa mattina. Sono Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, e Simone Zucca, responsabile produzione CAF ACLI. Vi anticipiamo oggi alcuni, ma veramente l'anticipazione è proprio parziale rispetto a tutti i temi dei quali si parlerà, la edizione 2017 di Telefisco, il grande convegno dell'esperto risponde, appunto dedicato alle novità fiscali per il 2017, appuntamento storico del Sole 24 Ore, giunto alla 26esima l'ultima edizione. Peraltro, se volete, sul sito internet del Sole potete consultare l'elenco completo delle oltre 100 sedi in cui è possibile seguire gratuitamente il convegno. Un'altra informazione di servizio che ci fa piacere darvi è che fino alle 18 di venerdì 3 febbraio sarà possibile inviare i vostri quesiti per gli esperti del Sole 24 Ore. Le risposte saranno pubblicate sul quotidiano a partire da lunedì 6 sul quotidiano, appunto, e da lunedì 6 febbraio anche sul sito internet, per cui se qualche argomento rimarrà evaso, come probabilmente succederà questa mattina anche a Cuore e Denari, appunto avrete l'opportunità di tempestare gli esperti del Sole. Domani ci sarà all'inaugurazione dell'iniziativa il vice ministro dell'economia Casero, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi e il neo presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Massimo Miani. Allora, avevamo in sospeso la domanda di Giampiero D'Ancona che chiedeva: fatto la ristrutturazione della casa, beneficio naturalmente di tutti gli sconti fiscali, la rosa l'abbiamo già raccontata tantissime volte. Luca De Stefani, se il contribuente che si è incaricato appunto della ristrutturazione viene a mancare, gli sconti fiscali possono ricadere sugli eredi? Sì, allora la problematica nasce dal fatto che la detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione è ripartita in 10 anni e quindi il beneficio può esserci il rischio naturalmente che in 10 anni appunto venga a mancare il contribuente. In questo caso la detrazione passa in automatico all'erede che ha l'immobile, che prende l'immobile. Cioè il problema è che se vi sono più eredi che ereditano questo immobile in quota parte, non è possibile che questi eredi ripartiscono tra di loro la detrazione del 50%, quindi è necessario che vi sia un unico erede. Altra problematica: è necessario per poter beneficiare di questa detrazione anche... Quindi mi faccia capire, se una casa viene ereditata da tre fratelli, gli sconti fiscali vengono persi perché non se ne possono, non se li possono ripartire? Purtroppo l'articolo 16 bis è scritto male e parla di erede appunto, singolo. Quindi domani si può risegnalare questa faccenda, ma è magari al legislatore che bisognerebbe dirlo più. L'abbiamo scritto più di una volta, sì, sul infatti. Sì, diciamo che in questo caso qui consiglio sempre di fare l'istituto della divisione ereditaria e quindi stabilire se c'è la possibilità, se vi sono altri beni, dividere, dare la casa a un soggetto e magari il denaro ad altri, certo, e così via, sempre se questo è possibile, ovviamente. Allora, sì, bisogna essere poi attenti: una volta che si ha ricevuto in eredità l'intero immobile è necessario detenerlo e non affittarlo a terzi, perché se si affitta a terzi si perde durante il periodo di locazione a terzi gli anni di detrazione fiscale. Chiarissimo, quindi speriamo di aver chiarito bene tutti questi aspetti al nostro amico D'Ancona. C'è anche un'altra domanda, sempre sui temi della ristrutturazione, da Loredana, da Lecco, che adesso sentiremo. Prima però volevo tornare a Simone Zucca, perché tra le novità di quest'anno ce ne sono anche di importanti, per cui per tutta quella platea di cosiddetti lavoratori rimpatriati che dopo aver fatto esperienza professionale all'estero sono rientrati, e quali sono le novità fiscali che riguardano loro, Zucca, sulle quali vale la pena soffermare l'attenzione? Sì, per i cosiddetti lavoratori rimpatriati bisogna dire che la legge di stabilità ha posto in essere un ulteriore comportamento di un'ulteriore attenzione. Per quanto riguarda quei lavoratori che sono tornati dall'estero nell'anno 2016, vedranno riconoscere il reddito complessivo soltanto sul 70% di quello prodotto, quindi il 30% in buona sostanza è considerato esente. Con la legge di stabilità del 2017, quindi dall'anno prossimo, la quota di esenzione sarà del 50% e non più del 30%. Allora, Luca De Stefani, torno un attimo da lei per chiarire un po' anche i termini di questo articolo pubblicato stamattina dal Sole 24 Ore. Dall'Agenzia delle Entrate è stato diffuso il modello definitivo per le persone fisiche. Ci sono i modelli definitivi praticamente delle dichiarazioni dei redditi. Perché è così importante questo appuntamento dell'Agenzia delle Entrate? Sono modelli con molte novità? Sì, diciamo che le novità ogni anno purtroppo con la legge di stabilità ci sono. Oggi, ieri appunto hanno pubblicato i modelli definitivi, il 730 era stato già pubblicato mesi precedentemente, vi sono però sempre delle problematiche, ad esempio il bonus, il credito d'imposta, di cui non si sa neanche ancora la percentuale, per quanto riguarda la videosorveglianza per privati, quindi non per imprese o per professionisti, che valeva solamente per lo scorso anno, quindi pagamenti e installazione di telecamere e collegamento anche con le forze di polizia per i privati, poteva essere fatto solamente lo scorso anno, però il decreto attuativo è stato pubblicato a dicembre e va fatta anche un'istanza, non si sa ancora la data, quindi una domanda vera e propria, e vi sarà un altro comunicato dell'Agenzia delle Entrate che dovrà stabilire la percentuale del bonus, quindi potrebbero anche dire che il bonus è pari allo 0,5%. Quindi ecco, diciamo, queste sono le problematiche. Sempre un po' le incongruenze aperte che voi appunto domani richiamerete di nuovo l'appuntamento con Telefisco. Andiamo a Loredana dalla provincia di Lecco. Loredana, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia domanda è questa. Allora, io e mio marito stiamo ristrutturando due piccoli appartamenti, di cui uno è proprietà 100% di mio marito e l'altro è 50% insieme a me. Noi intendiamo usufruire della detrazione fiscale, naturalmente. Giustamente, certo. Però i fondi vengono ritirati da un solo conto corrente, unico, intestato a tutti e due. C'è qualche problema? E anche i bonifici per i lavori di ristrutturazione partono tutti da quel conto che è cointestato, Loredana, giusto? Sì, è cointestato, perché, però noi mettiamo ogni volta, a seconda dei lavori che vengono fatti su un appartamento o l'altro, lo alimentate a seconda di quello che è necessario spendere, insomma. Sì, no, beh, alimentato per i soldi, vabbè, ci sono, però volevo dire, noi ogni volta che facciamo il bonifico indichiamo il codice fiscale della persona che intende usufruire dello sconto fiscale. Sì. Grazie Loredana, sentiamo un po' De Stefani, tutto chiaro? Sì, vuole avere certo. Qualche informazione? Sì. No, non c'è nessun problema, diciamo l'Agenzia delle Entrate negli ultimi anni, in base alle diverse risoluzioni che sono uscite, circolari, ha semplificato molto il tutto, ha dato la possibilità di fare anche i bonifici online, tramite le poste, e anche quelli cointestati non vi è nessun, anche per i contribuenti cointestati non vi è nessun problema. L'importante è che il bonifico sia cosiddetto parlante, quindi abbia le tre informazioni chiave, esatto. I termini di legge, esatto. Ci ricordiamo che cosa deve essere indicato in questo bonifico, perché ancora qualcuno sbaglia e ritiene appunto di compilare, anche se poi se si fa il bonifico online in realtà c'è già tutta la, come dire, modulistica predisposta da parte da parte dell'intermediario, da parte della banca, per cui dovrebbe teoricamente essere tutto più facile, ma non è detto, no, De Stefani? È vero. Comunque, ecco, appunto, le informazioni importanti e necessarie, direi che è l'unico adempimento veramente importante per questo bonus, è l'indicazione della norma di riferimento, che nel caso specifico della nostra ascoltatrice è l'articolo 16 bis del TUIR, che vuol dire testo unico imposte sui redditi, come basta scrivere TUIR. Poi va indicato il codice fiscale del contribuente e il codice fiscale dell'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione. Allora, noi stiamo andando verso il termine di questo approfondimento, magari solamente qualche domanda sulle scuole, Nicoletta, stava arrivando qualcuna su WhatsApp. Allora, ti leggo subito, prima delle scuole, Leo Firenze vorrebbe sapere a quanto ammonta la detrazione per lo sport per ogni figlio. Ah, ce l'abbiamo questa, De Stefani? Sì, per lo sport 40 euro dovrebbero essere. Benissimo, a figlio, con un tetto massimo, importo massimo della spesa? Allora, adesso non la voglio mettere in difficoltà, già 40 euro, esatto. Eccolo, 210 tanto la sapeva, la sa. C'era quella sulle mense scolastiche. Mense scolastiche, asilo e poi scuole parauniversitarie. Certo, spese per frequenza di asili elementari, medie e superiori, anche le mense scolastiche mi pare che siano comprese, no? È uscita una circolare proprio lo scorso anno che ha detto le spese per la mensa scolastica sono detraibili del 19%, lo stesso anche le spese per il pre-scuola e il post-scuola, il dopo-scuola praticamente, non è possibile però detrarre la cancelleria, i testi scolastici e il trasporto per andare a scuola. Benissimo, non tanto, insomma, magari se fossero inserite anche queste per le famiglie ci sarebbe un alleggerimento non indifferente. Detto ciò, noi vi invitiamo a portare queste osservazioni domani a Telefisco. Io ringrazio sia Simone Zucca che Luca De Stefani per essere stati con noi, tanto li richiamiamo presto, la stagione della dichiarazione dei redditi è lunga. lunga, complicata. Vedremo magari domani i temi più importanti che emergeranno da Telefisco 2017 del Sole 24 Ore, l'esperto risponde. Grazie ad entrambi e Nicoletta, direi che possiamo adesso con te inaugurare questa nuova bella rubrica. È qui la festa! Noi sì, festeggiamo perché oggi inauguriamo la salute e viene parlando un progetto che, come anticipato, ci vede a fianco degli specialisti di Humanitas per fare investimenti. Brava. a medio, a lungo termine sulla nostra salute. Quindi 800 24 0024. Cos'altro posso aggiungere? Hai visto? Guarda, ho creato un mostriciattolo. L'investimento, già madre natura ci aveva pensato, tu hai aggiunto poco, ma... il nostro numero verde è a vostra disposizione. L'invito è rivolto a tutti, ma in particolare Deborah lo facciamo a quei 9 italiani su 10 che per avere informazioni di salute consultano Google, che ormai è stato ribattezzato il dottor Google, e lo facciamo perché i nostri esperti sono più affidabili, più bravi e poi risponderanno direttamente alle vostre richieste che potete inviarci. Attenzione a salute@radio24.it. Naturalmente non vi faranno diagnosi, ma vi insegneranno a prendervi cura di voi e non trascurare dei segnali importanti. Allora, alle prime 10 mail che arriveranno a questo indirizzo di posta abbineremo naturalmente un libro della nostra libreria. Bene. Di Cuore Denari. In questo modo festeggiamo il mese di febbraio, è dedicato alle articolazioni, ma ci occuperemo nei mesi prossimi di intestino, di cervello, di seno, di pelle, di occhi, di polmoni. E quindi preparatevi a fare con noi questo viaggio. Oggi inauguriamo un mese speciale dedicato alle articolazioni, che a volte ci danno l'impressione di essere un po' arrugginite, un po' rigidi, pesanti, dolenti. C'è chi non ci dà peso, chi dà la colpa all'allenamento un po' intenso, magari del giorno prima in palestra, chi si rassegna pensando che sia un inevitabile regalo degli anni, chi dà la colpa al cambiamento del clima, al freddo, all'umidità, o chi pensa ai reumatismi. Ci avete pensato anche voi, vi riconoscete? Allora questa è la vostra puntata, ma dovrei dire questo è il vostro mese, perché alla fine di febbraio le nostre articolazioni saranno sicuramente meglio. Diverse. Allora ci aiuta in questo primo viaggio, inaugura questo bel progetto un grandissimo esperto, il professor Carlo Selmi, che è responsabile di reumatologia e immunologia clinica di Humanitas e docente all'Università degli Studi di Milano, che per l'occasione è venuto qui in carne e ossa. Buongiorno. E articolazioni comprese, naturalmente. Certo. Allora, diamo un po' una definizione di articolazione, perché diciamo, ad esempio, carne e ossa, muscoli e ossa, le articolazioni sono... Mi dia una bella definizione, vedi che interrogo anch'io. Brava. Ecco. Beh, le articolazioni di cui ci occupiamo principalmente sono quelle che mettono a contatto e a rapporto due capi ossei. Quindi pensiamo al gomito, pensiamo alle spalle, ma pensiamo anche alle piccole articolazioni delle mani, che spesso sono le più colpite dai dolori reumatici. Per cui in questo caso poi riconosciamo diverse strutture, strutture articolari o periarticolari, sì. Quelle che normalmente si coinvolgono nelle periartriti. E non dimentichiamo che anche la nostra colonna, il nostro rachide, è molto ricco di articolazioni di diverso tipo e che quindi possono essere fonte delle malattie di cui parleremo. Allora, abbiamo iniziato febbraio, il mese dell'articolazione, non a caso, perché ci sono stagioni che sembrano un pochino più sfavorevoli o favorevoli in alcuni casi di altre. Il freddo e l'umidità non aiutano, diciamo, le nostre articolazioni, o almeno questo pensiamo noi, tanto che ci sono persone che si lamentano, avvertono dolore e danno proprio la colpa al clima. È davvero così, professore? In buona parte sì. Nel senso che soprattutto il dolore di tipo derivato dall'artrosi, diciamo, di cui parleremo poi più avanti, però in cui è più l'articolazione ad essere consumata, effettivamente peggiora durante i mesi invernali, i mesi più freddi. Dall'altra parte, nel caso dell'artrite invece, quando ovvero ci sia infiammazione, nel momento in cui l'articolazione va a scaldarsi, quindi ancora una volta nelle stagioni più calde, questa diventa meno dolente. Allora, 800 24 0024, che dire, parlate, intanto poi potete scrivere naturalmente le vostre domande, il progetto è molto ricco perché continuerà naturalmente sulle pagine di Cuore Denari, l'iniziativa avrà uno spazio tutto suo, la salute viene parlando, perché proprio le vostre domande troveranno la risposta vocale, come si dice, a voce del professor Selmi. Ma puntualmente stanno noi arrivando, perché le torneremo, vedo già. Torneremo naturalmente a raccontarvi tutto quello che può aiutarvi a stare bene o a recuperare il benessere delle vostre articolazioni. Quindi direi che febbraio è un po' il mese del lamento, professor Selmi, perché ci lamentiamo sempre delle nostre articolazioni. Chi di noi o ha un piccolo dolorino o ha qualche difficoltà a compiere un gesto, un movimento? Andiamo a sentire la nostra scheda. Stringere la mano senza esitazione, abbottonare la giacca o allacciare il reggiseno, salire e scendere dalla macchina, afferrare oggetti o girare la chiave nella toppa. Allora, avete delle avvertite una sorta di disagio, di difficoltà a stringere la mano, abbattonare la giacca o allacciare il reggiseno, salire o scendere dalla macchina, afferrare oggetti o girare la chiave nella toppa, come ha ben illustrato la nostra scheda? Professor Selmi, potremmo dire ai nostri ascoltatori che se queste domande le hanno incuriosite o hanno provato a rispondere a qualcuno di queste e hanno risposto sì o abbastanza o qualche volta, direi che la puntata è davvero per loro. Allora, professor Selmi, perché? Perché le nostre articolazioni ci mandano dei segnali che noi dobbiamo riuscire ad interpretare. Partiamo dal dolore, e che ci dà tante indicazioni importanti e soprattutto ci aiuta a capire se le nostre articolazioni si stanno usurando, sono invece, tra virgolette, infiammate. Professore, partiamo dal dolore. Certamente il dolore è il primo sintomo per cui le persone si rivolgono a noi, e il dolore articolare la fa certamente da padrona in questo senso. Quello che occorre notare è innanzitutto la sede e quindi il tipo di articolazioni che vengono coinvolte. Se quelle grandi come le ginocchia, le caviglie, le spalle o le anche, oppure le piccole come abbiamo detto prima delle mani o dei piedi. Sì. Dall'altra parte la durata nel tempo, il dolore dell'artrosi, quindi di un'articolazione più consumata, è un dolore che generalmente è data da molti anni e per il quale a un certo punto la persona dice non ce la faccio più, il dolore sta andando peggio. Il dolore artritico è generalmente un dolore che esordisce molto prima, e quindi un dolore infiammatorio che quindi ha delle caratteristiche più brutali, diciamo, sulla qualità della vita. Le domande che avete posto sono molto, molto appropriate, nel senso che molto spesso queste sono le domande che anche noi poniamo per capire. Abbiamo voluto fare anche noi un po' il professor Selmi, non il dottor Google, ma abbiamo un po' scoppiazzato. Eravamo un po' in ansia di prestazione. È da dimostrare se sia una buona cosa fare me, però certamente questi sono dei piccoli atti che possono essere limitati nelle diverse persone, nei diversi pazienti. Attenzione, aggiungerei anche che una certa quota di dolori può essere normale, tra virgolette, nelle persone. Effettivamente l'età non aiuta, effettivamente il sesso femminile non aiuta, le donne sono più colpite dalle malattie reumatiche ed effettivamente quello che cambia è la qualità della vita, cioè la domanda che forse deve fare da fulcro di tutto quello che noi facciamo è quanto questo problema causa effettivamente un cambiamento nella qualità della vita o nella vita di tutti i giorni delle persone. E questo credo che sia poi l'elemento principale al di là della perfezione. E poi ci sono degli aggiustamenti anche di stile di vita, forse il primo e meno considerato in questi casi è certamente il peso. Oggi noi siamo sovrappeso, oggi noi sottoponiamo le nostre articolazioni a un lavoro extra, pensiamo naturalmente all'anca o al ginocchio nel momento in cui noi abbiamo 10, 15, quindi, 20 kg di sovrappeso. Nemici delle nostre articolazioni sono quindi, non so perché Filippa Oreggi, che regia la parte tecnica, si sta ridendo, ma adesso si nasconde. Allora, mettiamoli in cima. Anni? Sì. Postura? Sì. Gender? Peso? Sicuramente, perché il sovrappeso. Quali altri? Lei ha sottolineato che soprattutto le malattie reumatiche hanno un debole per noi donne, ma questo Direi che si possono distinguere quelli su cui possiamo lavorare e quelli su cui non possiamo lavorare. Tra quelli su cui non possiamo lavorare c'è sicuramente il sesso maschile o femminile, in particolare a sfavore delle donne. C'è sicuramente l'età e c'è un altro che vale praticamente per qualsiasi malattia conosciuta oggi, che è la familiarità. Cioè avere un familiare con una malattia reumatica aumenta il rischio di averne un altro caso nella stessa famiglia. Ben lontano dall'essere malattie ereditarie, però sia chiaro, per cui non... Allora, adesso noi diamo la linea naturalmente a Deborah perché arrivano le notizie sì, sui no, mercati, posso dirti, vedo che stai strabuzzando, sì, no, perché c'è di nuovo? Perché Suor Noemi ci ha scritto, dai, che ci ascolta sempre con grande affetto e attenzione da Roma, le suore Paoline di Roma. Non ho denari da investire, ma ho una salute da migliorare e mantenere grazie del libro sulle articolazioni. Fantastico. Allora ci prenderemo cura anche delle articolazioni di Suor Noemi, che salutiamo e ringraziamo. Andiamo a sentire i mercati. Sì. Torneremo per chiedere al professor Selmi allora quali sono i segnali da non sottovalutare. Parleremo anche di, naturalmente, di mal di schiena, perché molte persone trascurano il mal di schiena oppure ci convivono rassegnandosi. Esatto. Ci sono sicuramente dei campanelli d'allarme che è importante che noi conosciamo, e poi parleremo anche di che cosa fare per ridurre il dolore, quanto e come lo stile di vita inteso come alimentazione ma anche come attività fisica può aiutare a preservare la salute e il benessere delle nostre articolazioni, quando invece può rappresentare un rischio. Ma naturalmente le vostre domande, perché noi stiamo parlando troppo. Mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Allora, siamo tornati insieme. Oggi stiamo lanciando il nostro nuovo progetto La Salute Vien Parlando, che ci vede a fianco degli specialisti di Humanitas. Il mese di febbraio è dedicato alle articolazioni, tema molto ampio e complesso. Ci aiuta il professor Carlo Selmi, che è pronto anche a rispondere a tutte le vostre domande per tutto il mese. Professor Selmi, quindi... Ha voluto la bicicletta. Adesso pedaliamo. Adesso pedaliamo. È un onore. Che carino, vedi gli uomini bugiardi quanto ci piacciono. Guarda, allora, 800 24 00 24, adesso faremo un viaggio dalla testa ai piedi, un po' come, se la ricorda quel gioco, il piccolo chirurgo, dove si accendeva la lampadina. Sì, ecco, carino. Adesso faremo così con lei, ma prima diamo una bella... ritorniamo sul concetto dolore. Perché quando si parla di articolazioni, le articolazioni possono essere danneggiate, abbiamo appesantite dagli anni, dalla postura, dal peso, ma si possono anche infiammare e ammalare. Allora, almeno alla fine di questo mese, ma mi piacerebbe già alla fine di questa puntata dare ai nostri ascoltatori due concetti chiave per non fare confusione, non per farsi autodiagnosi, ma per evitare di andare a cercare nel dottor Google delle informazioni che spesso non corrispondono, non sono veritiere, ma per orientarsi e magari, perché no, parlarne con il medico o stare sereni. Professor Selmi. Questa è forse la domanda centrale di tutto quello che discuteremo oggi, cioè qual è la differenza tra un dolore da artrite e un dolore da artrosi, che è la grossa differenza. Direi che tutti i dolori che hanno una caratteristica meccanica, cioè dolori che peggiorano con il carico, che peggiorano con l'utilizzo, sono più probabilmente dei dolori meccanici e quindi da artrosi. E per artrosi intendiamo il consumo dell'articolazione legato al tempo, all'età e al peso. Quindi se vado a correre poi ho male, oppure vado in palestra, o faccio le pulizie di casa un pochino più di fino, un pochino più, mi viene male, questo è molto probabilmente un dolore che mi segnala che le mie articolazioni sono un pochino usurate. Esattamente. Giusto? Esattamente. Okay. Come poi... peraltro a buona parte della nostra popolazione, trovare un po' di artrosi nel momento in cui uno fa una radiografia, soprattutto le articolazioni principali, ginocchia, anca e colonna, è molto più frequente del caso inverso. Ma naturalmente nel corso di questo mese noi vi daremo anche indicazioni, perché se l'artrosi, certo, è diventata un po' la vostra compagna di vita, allora che cosa fare per evitare il dolore o per peggiorare la situazione? Servono gli integratori? Quale tipo di dieta? Quale tipo di attività fisica, ci sono delle terapie che funzionano, cosa dice la ricerca, quindi continuate a scriverci e a chiederci, perché spremeremo il professor Selmi. E l'artrosi l'abbiamo lasciata lì. Al mattino è un dolore che ci accompagna già dal mattino? Questa è la spia più importante, cioè chiedere come sta la persona al risveglio al mattino è forse la domanda centrale di questa distinzione. Generalmente la persona con un'artrite o in generale con un'infiammazione sarà molto peggio al risveglio. Nel caso del mal di schiena il risveglio può essere addirittura causato dal mal di schiena infiammatorio ore prima della sveglia, del suono della sveglia. E in questo senso in particolare la rigidità. Attenzione, è molto normale che tutti noi appena svegli si abbiano alcuni minuti di rigidità in cui, se vogliamo fare un esempio concreto, sarebbe più difficoltoso aprire una caffettiera, sempre sì, che la si usi. E, però nel caso dell'artrite, questa dell'artrite reumatoide, dell'artrite psoriasica... E quindi andiamo nei reumatismi, noi li chiamiamo così, delle malattie reumatiche. Delle malattie infiammatorie croniche, direi questo va a durare per diverse ore. Le persone hanno franche difficoltà di movimento, nei movimenti fini, nei movimenti grossi, nel camminare addirittura per diverse ore, a volte addirittura per l'intera giornata. Però credo che il peggioramento dopo il prolungato riposo, che è poi quello che lo causa, la prolungata inattività, la prolungata stato di quiete della persona, è quello che è più dirimente in questi casi. Allora, se vi è chiaro, altrimenti 800 24 00 24. Ma passiamo dalla teoria alla pratica, sì, andiamo sul campo, partiamo dal collo. Allora, può capitare di alzarsi la mattina col collo bloccato. Cosa può essere successo? Sicuramente il riposo non aiuta in questo senso, le articolazioni poi quando si risvegliano si lamentano. Ma può essere colpa della finestra rimasta aperta, del materasso magari troppo morbido o del cuscino o rigido. Quali possono essere le cause di questa contrattura? Come possiamo analizzarla? Nella stragrande maggioranza dei casi il dolore cervicale è causato da artrosi. E ancora una volta, diciamo che se noi facessimo una radiografia della colonna cervicale a 100 italiani oltre i 50 anni, troveremmo probabilmente l'artrosi cervicale in 70-80. Non tutti questi hanno una qualità della vita peggiorata da questo. E i fattori scatenanti in termini di materasso, di cuscino, di temperatura possono essere molto vari. Anche lì, quando avere allarme, quando il dolore è nuovo e soprattutto coinvolge le spalle nelle persone sopra i 50 anni, quindi un dolore che il mese scorso non c'era e sì, questo mese mi impedisce per esempio di pettinarmi perché non riesco ad alzare le braccia al di sopra del livello delle spalle, oppure un dolore che è francamente cambiato di caratteristiche, o ancora una volta che ha un peggioramento infiammatorio, quindi un dolore che con l'inattività va nettamente a peggiorare. Nel frattempo cosa fare? Caldo, freddo, massaggi, antidolorifici? Tutte queste sono terapie sintomatiche, sì, possono dare beneficio, non sono controindicate, generalmente non sono curative, ecco, nessuno si deve aspettare una soluzione del problema con tutto questo. La cosa che non bisogna fare è stare a riposo, e questo credo che oramai, contrariamente a quello che si credeva alcuni anni fa, per tutte le malattie reumatiche bisogna incoraggiare il movimento. La scelta di uno sport, di un movimento quotidiano regolare è importante, e credo che, ad esempio, non voglio saltare dalla testa alle ginocchia, però l'esempio per esempio della corsa sulla salute delle ginocchia sia paradigmatico. Fino ad alcuni anni fa si sconsigliava del tutto la corsa pensando che potesse causare artrosi delle ginocchia. Oggi anche dati recenti ci mostrano che non è così, che sicuramente tutte le attività ad alto impatto, cioè quelle che vanno a dare, come dire, ripetute solletici, stimolazioni, sì, alle articolazioni, soprattutto alle grosse articolazioni, può in pazienti predisposti causare un peggioramento del problema, ma in generale non ne causa la comparsa. Ecco, per cui facciamo muovere le persone idealmente con attività fisica a basso carico. Il nuoto è per noi certamente lo sport ideale, la bicicletta è uno sport altrettanto eccellente, se parliamo di salute anche delle ossa in termini di osteoporosi eccetera, la camminata veloce è un massaggio, sì, vero? È come una sorta una di stimolazione, massaggio. Sì. Allora andiamo alle spalle, sì, è lì che avvertiamo spesso il peso delle nostre preoccupazioni, dei nostri affanni, c'è anche una lettura psicosomatica di quella sorta di indolenzimento doloroso che avvertiamo sulle spalle spesso a fine giornata. Ma al professor Selmi, il dolore alla spalla, che cosa suggerisce? È importante anche capire quando insorge? Assolutamente, ancora una volta, il dolore che ha un'insorgenza acuta e che non c'era poche settimane, pochi mesi prima, deve, soprattutto nelle persone, diciamo, oltre i 50 anni, deve far pensare alla possibilità di un problema reumatico, in particolare ad una polimialgia reumatica. Molto più frequentemente ad essere danneggiati sono i tendini, il capolungo del bicipite piuttosto che il supraspinato, sono tendini che molto spesso vanno a lesionarsi, vanno ad avere una la tendinosi. La cuffia dei rotatori. Eccola. Altrettanto frequente. Eccola, questa a me piace. Ti ricordi quando ti eri accorta che io avevo un problema? Che poi perché vede, io sono un po' come il dottor Google, non so ma faccio diagnosi. E lei è un po' la mia cavia. Però ci ha azzeccato. Esatto, lo aveva azzeccato. Credo che sia... sia molto, no, sia assolutamente da incoraggiare. Allora, basta dire spalle e la nostra posizione cambia, esatto. Perché siamo tutti non un po'... Senta, nel frattempo serve fare quella ginnastica al collo, come suggerisce Susi, tutte le mattine. Si siede in bagno, 3 minuti, faccia ginnastica al collo, va bene? Lo stretching ha un buonissimo effetto sia sulle articolazioni sia sulla muscolatura. Ecco, non può essere l'unica attività fisica. No, beh, certo. Sarebbe un po' riduttivo. Bagno, poi quando esce dal bagno, perfetto. Susi si dà da fare. Allora, in un minuto, perché poi voglio, sì. Abbiamo veramente il centralino che scoppia, vogliamo sì. Metterlo un po' alla prova. Schiena, mal di schiena, sì. Lo avvertiamo in basso, in alto, a metà, ma ci preoccupiamo subito. Ma io farei solo una distinzione, se lei mi permette, tra il dolore che avvertiamo lungo la colonna, quindi verticale, e quello orizzontale. Ci dà già un'indicazione? Sì, il mal di schiena ce l'abbiamo tutti, partiamo da lì. Gli italiani, il 100% degli italiani ha almeno un episodio di mal di schiena durante l'anno. Nella stragrande maggioranza dei casi sono mal di schiena del tutto benigni che passeranno entro pochi giorni, quindi essere aggressivi dal punto di vista terapeutico a pochi. La distribuzione del dolore aiuta abbastanza poco. Ancora una volta, attenzione al mal di schiena infiammatorio, cioè il mal di schiena che sveglia prima del suono della sveglia, quindi intorno alle 4 o alle 5 del mattino, dopo che si è stati fermi per alcune ore, e lì cambiare materasso eccetera non ha poco serve. Senso. Attenzione al mal di schiena che migliora con l'esercizio fisico. La domanda cruciale è: lei sta meglio alla sera dopo una giornata di lavoro o al mattino quando si sveglia? La persona col mal di schiena normale sceglierà certamente che il mal di schiena è peggio la sera. 800 24 00 24, andiamo a sentire le informazioni sul esatto. Traffico, perché anche stare seduti ore e ore alla guida guidare, non aiuta. Esatto. Salutiamo i nostri amici camionisti che ci seguono sempre con anche affetto. Gli agenti di commercio. Certamente. Hai gli visto? Architetti no, però no, neanche per niente guarda, affatto. Andiamo. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Eh sì, perché parole, parole, parole, perché la salute viene parlando, ma soprattutto in voce la risposta dei nostri esperti. Chiamateci, scriveteci a salute@radio24.it. In questo mese tutto dedicato alle articolazioni, dall'A alla Z. E quindi segnali da non sottovalutare, ma anche parleremo di ricerca, metteremo anche coinvolgeremo il professor Selmi per commentare tante anche l'efficacia di alcuni prodotti che vengono, alcune terapie che vengono suggerite per curare le malattie delle nostre articolazioni. Ma intanto Bruna dalla provincia di Cuneo, Claudio dalla provincia di Milano, Pietro dalla provincia di Savona, voilà, una batteria di domande. Bruna, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dopo quella bella spiegazione del professore mi sono accorta di essere una persona artrosica. Comunque, a parte tutto questo. Vede, la salute viene parlando, Bruna. Esatto. Però volevo anche chiedere questo al professore. Io appunto questo problema un po', non problema, quando mi alzo le mattine più la parte più dolorante diciamo che è il polso. Più il polso al sinistro, però dopo un po' mi passa. Ma nel muovere un po' particolarmente il polso sinistro mi è un dolore un pochino più forte, e questo l'avevo anche alle falangi, avevo questo dolore un po' raggrippito così delle mie dita. Allora, però posso anche sì. dire questo, che dopo aver iniziato a suonare il pianoforte le mie dita vanno meglio. Ecco, vede? quando si dice la musica a effetto terapeutico, anche suonare, no? La musica. Allora, Bruna, il suo tallone d'Achille è il polso. Diamo le indicazioni. Il polso, che è il tallone d'Achille di molti di noi, a volte non prestiamo adeguata attenzione, in modo particolare delle donne. Professor Selmi. Il polso e le piccole articolazioni delle mani e delle dita sono sicuramente possono far pensare ad una forma di artrite. Il fatto che il dolore possa migliorare con l'uso, effettivamente credo che meriti un approfondimento. Forse un'ecografia articolare sarebbe il primo test che svolgerei nella signora Bruna. Anche il polso, Bruno ha detto ha un polso. Il fatto che arrivi, il dolore si manifesti in uno solo dei due del polso, ha un'indicazione in più? Ci dice qualcosa? Perché a volte il dolore non è bilaterale. Non tanto sulla scelta tra artrosi e artrite, no, quanto sul tipo possibile di artrite. La più nota è l'artrite reumatoide, naturalmente, che tutti abbiamo sentito nominare, che è generalmente simmetrica e quindi che colpisce i due lati del nostro scheletro in maniera abbastanza equivalente, per cui effettivamente è meno tipico aver dolore solo da un lato al polso. Andiamo a Claudio dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Claudio. Allora, senta, il mio problema non è questione di dolori o cose del genere, è che semplicemente io sento scricchiolare tutto. Mi scricchiola il ginocchio, mi scricchiola il collo quando... Claudio, insomma, è un... Deve lubrificare in sostanza. È un po', direi, un po' tutto arrugginito. Claudio, berrà un po' troppa acqua. No, non lo sono, perché io faccio ginnastica. E ultimamente sento questi... Tranne scricchioli. Allora, tutto scricchiolante, Claudio. Gli scricchioli, che cosa hanno bisogno di lubrificazione, attività sportiva specifica? Non li sentiamo neanche che loro facciano un po' quello che vogliono. Ma gli scricchioli, cioè gli scrosci, sono generalmente un segno rassicurante, perché più spesso si associano, cioè sono indicativi di artrosi molto più che di artrite. Sono molto frequenti a livello delle ginocchia, molto frequenti a livello delle spalle, quindi sono come dire, segni che generalmente possono tranquillizzare. Diverso è il caso in cui questi creino effettivamente delle difficoltà di movimento o naturalmente dei dolori. Allora, Pietro dalla provincia di Savona, poi torniamo alla schiena per dare delle indicazioni, come ci suggerisce un ascoltatore, ma se ci si sveglia all'alba per il dolore alla schiena, che fare? Pietro, si può iniziare a pulire un po' casa per la moglie, ad esempio. Pietro dalla provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io pulisco. Bravo! Bravo, vedrà che le articolazioni come si mantengono. Ma speriamo. Ci dica, me lo auguro. Pietro. Intanto grazie per l'iniziativa bellissima. Il mio problema è questo. Mi sveglio la mattina con la sveglia, sì, e con un forte dolore nella zona sacrale che poi passa nel giro di un'oretta e mezza. E la sera magari torna. Ma sotto forma di una rigidità, più che altro. Allora, Pietro, grazie per questo intervento. Nel dare la spiegazione, professor Selmi, vuole dare anche magari un'indicazione su che cosa fare per alleviare magari questo dolore? Prima che alleviarlo, cercherei di capire da dove arriva. La descrizione di Pietro fa molto pensare ad un dolore dalle caratteristiche infiammatorie, soprattutto se tutto è iniziato in età giovane, diciamo prima dei 40 anni, e se si associa ad altri sintomi come dolori articolari periferici o la presenza ad esempio di psoriasi cutanea. In questi casi credo che sia indispensabile, pur essendo un uomo, e queste sono tra le poche malattie reumatiche che non hanno preferenze tra uomini e donne, se non addirittura a sfavore dei maschietti, credo che delle indagini con una radiografia normale del bacino ed eventualmente una risonanza magnetica del bacino siano auspicabili, accanto idealmente a una valutazione reumatologica. Che cosa della telefonata del nostro ascoltatore l'ha colpita? Il dolore del mattino o la rigidità la sera o entrambe? Che così tutte e due? Tutte e due le cose. E la localizzazione, direi. Allora, abbiamo ancora, adesso vado a vedere, pochi minuti. Davide, dai, Davide ce la si fa? Buongiorno, Davide. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie anche a lei. Niente, io volevo chiedere al professore, io faccio l'autista. E ho sempre il gomito sinistro, diciamo, che è sempre appoggiato all'appoggiabraccio, diciamo, della porta del mio mezzo, no? E sono circa un paio di mesi che sento un dolore su un ossicino a fianco al gomito. Un dolore che schiacciando, diciamo, questo ossicino mi dà dolore. E poi sento un dolore, come diceva prima il professore, a livello tendineo. E dove, diciamo, ecco, per farvi capire dove c'è il prelievo del sangue, diciamo, se schiaccio lì sento un dolore anche nel fatto di far forza sul braccio. Ecco, niente, volevo sapere se poteva darmi qualche... Una descrizione minuziosa. Precisissimo. Davide, escludere che si tratti di un'epicondilite, quindi di quello che si chiama un gomito del tennista, seppure possa non giocare a tennis, e quindi primo esame che farei è un'ecografia che vada a studiare il punto dove i tendini si attaccano all'osso, quelle che noi chiamiamo le intesi, perché questo può portare ad un'entesite, quindi appunto a questo tipo di dolore. Ma è la posizione di Davide, che del gomito, che può scatenare questo problema, è nelle persone predisposte, naturalmente? Naturalmente è una delle condizioni, però credo che non faccia questo mestiere da 2 mesi, e quindi l'insorgenza dopo 2 mesi di questo tipo di sintomo perlomeno mi incoraggerebbe ad andare a vedere più in profondità. Abbiamo 30 secondi, ma poi abbiamo un mese davanti, anche se è un mese un pochino più corto, professore, per dare un altro concetto che poi svilupperemo. Le malattie reumatiche non riguardano sempre solo le articolazioni, ma ci sono altri segnali che possono aiutarci ad arrivare ad una diagnosi, un po' sparsi. Lei ha citato la psoriasi, quindi un problema alla pelle. Le malattie reumatiche sono in generale delle malattie sistemiche, quindi possono colpire sostanzialmente qualsiasi organo. L'esempio forse principale è quello del lupus eritematoso sistemico, ben noto anche ad esempio a chi guarda televisione, può colpire davvero qualsiasi organo. Dall'altra parte, malattie che possono coesistere, ha nominato la psoriasi, nominerei anche le malattie infiammatorie dell'intestino. Allora, noi ci fermiamo, ma continuiamo. Il professor Selmi, per tutto il mese, il nostro specialista per le articolazioni. Grazie. Allora, la salute vien parlando, certo. Continuate a seguirci. Grazie, professor Selmi. Salute @radio24.it, naturalmente, per tutte le domande che continueremo a raccogliere. E domani io ti lascio da sola. Investire informati lo trasloco a venerdì. Non mancate. Buona giornata a tutti.